giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sostenibilità, cura del personale, innovazione, il bilancio di Bata un anno dall'insediamento in Punto Franco a Trieste. Capi firmati per fatti ma falsi, maxi sequestro tra Trieste e la Germania sul mercato, il valore era di 20 milioni. Restano dispersi due anziani allontanatisi nel capoluogo giuliano, ieri l'appello del figlio di uno di loro a chi l'ha visto. Giornata mondiale del rifugiato, iniziative di solidarietà in regione, vi raccontiamo due storie di integrazione. La Cimolai di Pordenone completa in tempo record il ponte più importante dell'Albania, il gruppo subentrato a cantiere aperto. Il comune di Gorizia rinnova la convenzione con la Biblioteca Statale Isontina, che ospita il prezioso patrimonio della civica. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Cominciamo con il bilancio di un anno di British American Tobacco a Trieste all'Innovation Hub, il centro di innovazione e sostenibilità del gruppo. Un compleanno che sorride al presente e al futuro, quello della Bat Italia, la British American Tobacco. Un anno fa l'inaugurazione dell'Innovation Hub di Trieste, dopo la decisione del gruppo, con sede a Londra, di scommettere sull'Italia. Ed oggi, con 400 dipendenti, 84 milioni di euro di investimenti, un valore di produzione di 23 milioni sul territorio di Trieste e del Friuli, le prospettive si presentano rosee. Le cifre sono state fornite in Confindustria dall'amministratore delegato De Petris e dai dirigenti del gruppo dopo uno studio effettuato dal MIB Trieste School of Management. Le prospettive sono di continuare ad investire, di continuare ad assumere persone sul territorio nazionale e di continuare a tenere l'Italia al centro delle strategie del gruppo. L'Innovation Hub è un centro di innovazione e sostenibilità di livello mondiale per un investimento totale fino a 500 milioni di euro in 5 anni e circa 2.700 futuri posti di lavoro stimati tra diretti ed indiretti. Uno spazio di oltre 11.000 metri quadrati che, oltre ad ospitare un nuovo centro di produzione per i prodotti a potenziale rischio ridotto di tabacco, in cui saranno sviluppati anche dei prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina, ospita anche un laboratorio di innovazione, centro di eccellenza per la trasformazione digitale ed il digital marketing del prodotto. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. Quasi 160.000 capi di abbigliamento e accessori di diversi marchi del lusso, tutti falsi, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Trieste e dall'Agenzia delle Dogane, con una imponente operazione nel settore della contraffazione. La merce rinvenuta in un container proveniente dal porto turco di Pendik, intercettata nel porto di Trieste, riportava loghi perfettamente riprodotti dei brand più ricercati, da quelli dello sport all'alta moda. A insospettire sono stati l'insolita eterogeneità del carico e il coinvolgimento di società estere non direttamente collegate al settore del commercio di abbigliamento. I capi controllati erano di ottima fattura e ben confezionati, ma le perizie, affidate direttamente alle aziende titolari dei vari loghi, hanno consentito di scoprire che si trattava di prodotti falsi. Le indagini hanno poi permesso di risalire a un'altra spedizione che, transitando dall'Italia, stava per raggiungere la Germania. Grazie all'alert inviato alle autorità tedesche sono stati quindi individuati e sequestrati quasi 74.000 ulteriori articoli, tra abbigliamento, borse e calzature. I capi d'abbigliamento e gli accessori erano occultati da articoli tessili regolarmente trasportati. Sul mercato avrebbero potuto garantire introiti per quasi 20 milioni di euro. È sempre a Trieste, il nucleo di polizia commerciale della polizia locale sta effettuando una serie di controlli nei negozi, in 3 esercizi, in via Trento, via Cellini, via Filzi. Sono stati trovati prodotti che presentavano irregolarità di etichettatura, in particolare capi di abbigliamento e occhiali da sole. 470 travestiti, costumi e cappelli sono stati sequestrati poiché privi dell'etichetta obbligatoria sulla composizione del tessuto, un elemento basilare legato anche alla salute. I prodotti tessili non idonei e non conformi al regolamento europeo possono provocare allergie e irritazioni alla pelle. Sequestrati anche 126 occhiali da sole, privi delle avvertenze e delle indicazioni sulla composizione. Anche in questo caso gli occhiali non certificati possono essere pericolosi per la vista perché non in grado di schermare adeguatamente la luce solare. La tragedia del Natisone, mentre continuano in queste ore le ricerche di Christian Molnar, il terzo disperso nella piena del Natisone con Patrizia Cormos e Bianca Dorosh, i cui corpi erano stati trovati 2 giorni dopo essere stati trascinati via dall'acqua. Questa mattina si è svolta la perizia sull'unico telefonino trovato sinora, quello della giovanissima studentessa di arte di Basaldella di Campoformido. Questo pomeriggio alle 17 in prefettura Udine il punto sulle ricerche fino a oggi infruttuose del 25enne. E ci sono anche 2 anziani tra le persone di cui da giorni non si hanno notizie in regione. Il figlio di uno di loro ieri si è rivolto alla trasmissione Rai Chi l'ha visto. Sono passate 8 notti dalla scomparsa di Bruno Makarovic, l'86enne che si è allontanato dalla casa di riposo di Borgo San Sergio a Trieste mercoledì 12 giugno. Le ricerche sul campo si sono fermate e ieri c'è stato l'appello del figlio Michele alla trasmissione Chi l'ha visto. Devono guardare tutti quanti in giro perché può essere sia... era comunque un grande camminatore e altre volte era già scappato e l'abbiamo trovato in centro città. Anche se Trieste è una piccola città, però l'abbiamo trovato in centro e l'abbiamo riportato indietro. E stavolta non siamo riusciti ad arrivare in tempo. La questura continua comunque a raccogliere informazioni per poter rintracciare l'anziano. Il giorno della scomparsa una telecamera l'ha ripreso alle 17.50 mentre si allontanava. Si cerca nell'area boschiva, nei pressi della casa di riposo, ma anche in centro città, visto che l'86enne, affetto da demenza senile, è descritto dal figlio Michele come una persona capace di lunghe camminate. Al momento della scomparsa, Bruno Makarovic era vestito con abiti di colore blu e indossava delle pantofole. E si continua a cercare anche Stanca Mocole, 69enne, che giorni fa si è allontanata dalla sua abitazione di Sales, sul Carso Triestino. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi ricorre la giornata mondiale del rifugiato a Trieste dalle 19 alle 20.30 in piazza della Borsa. Si potrà testimoniare vicinanza e solidarietà alle tantissime persone che fuggono dalle loro terre. Ma sentiamo in questo servizio una storia di integrazione riuscita, quella di un giovane uomo pakistano. Un giorno mi scriverò libro, sarà Bu. Il titolo sarà Bu, perché? No, perché quando sono arrivato qui a Trieste, quando sono andato in Piazza Unità, non sapevo cos'hai. Io chiedevo domande alla gente, volevo andare, posto per dormire, e mi rispondono, buh. Ali è arrivato a Trieste nel 2016 all'età di 32 anni. Anche il suo è stato un viaggio della speranza, 2 anni di sofferenze, violenze e 5 respingimenti sulla rotta balcanica. Macedonia e poi Ungheria. Ungheria c'è stato 6 mesi. Pregione e poi, però senza motivo. E poi sono tornato di nuovo in Serbia e poi ho privato di nuovo da andare avanti. In Macedonia mi hanno picchiato poliziotti, veramente era successo troppo, stato male. Sì, ho 2 mesi, ho dormito in strada, Molo, Chiesa Sant'Antonio e poi Barcola, era mezzo topi. E poi piano piano ho trovato mia strada. Ali sorride sempre anche quando parla di sofferenza. Oggi ha un permesso di soggiorno per lavoro ed è sempre disponibile ad aiutare non solo i rifugiati ma chi ne ha bisogno. È attivissimo, un volontario della comunità di Sant'Egidio, ha promosso diverse azioni di pulizia al Silos e ha contribuito anche a scrivere una parte del libro Storie da stereotipi, tutti sorridono nella stessa lingua. La sua passione sono i libri? Sì, anche musica. Musica Lucio Battisti, il mondo che non ne vuole più, se mi accanto libero, se tu. Trieste, Vaciuti, GR, Friuli Venezia Giulia. Numerose le storie positive di integrazione premiate ieri a Roma, 220 imprese italiane che hanno aiutato con un lavoro coloro ai quali è stata riconosciuta la protezione internazionale. Tra le aziende che hanno ricevuto il riconoscimento c'è la Lorenzon di Azzano Decimo, attiva nell'edilizia. Abdullahi Eba ha 23 anni, ma lascia casa quando ne ha solamente 8. Morto il padre, la madre non può più garantirgli un sostentamento. Si allontana dal Gambia e inizia a girare per l'Africa per anni, sfruttato e maltrattato, senza frequentare una scuola. Di questo lungo viaggio porta le cicatrici. Anche questa che io ne ho qua, sulle spalle, da qua ho preso tutto sui paesi arabi, no? Perché i paesi arabi è difficile difficile stare oggi vivi, domani non si sei. Da minorenne sale su un barcone che lo conduce dalla Libia all'Italia. Arriva a Pordenone, dove 3 anni fa, grazie all'associazione Nuovi Vicini, conosce Walter Lorenzon, titolare di una storica omonima impresa edile della zona. Lorenzon gli dà i consigli giusti, gli offre un lavoro, lo tiene lontano dai guai, gli mette a disposizione una maestra che gli insegna a leggere e a scrivere. A lui, che conosce 4 lingue ma solo nella forma parlata, per lui Walter è stato prima di tutto un padre oltre che un datore di lavoro. Come io non ho avuto la mia vita per qualcuno che mi dà delle cose, che mi dà una mano per aiutarle delle cose, per lui è stato proprio come il mio papà. Si commuove e va quando pensa a sua madre, ai soldi guadagnati col lavoro che le ha potuto inviare. Lorenzon parla con orgoglio di lui all'indomani del premio che la coppia ha ricevuto a Roma dall'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, una delle 220 imprese italiane a ottenere il riconoscimento. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E parliamo della riforma della magistratura che sarà discussa in Parlamento e che promette di dividere la politica e non solo. Il costituzionalista Giampaolo Dolso, direttore del Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università di Trieste, ci ha spiegato i punti salienti della riforma in questa intervista. La separazione delle carriere in sostanza non è null'altro che il completamento di un processo che è già iniziato in questi ultimi anni e che ha portato a distinguere abbastanza nettamente le funzioni di giudice da quelle del pubblico ministero, tanto è vero che il sistema vigente consente solo un cambio di funzione nell'ambito della carriera del magistrato. La separazione più netta attuata col disegno di legge costituzionale è il portato del codice di procedura penale, ormai non tanto nuovo, dell'89, che prevede, è un codice di impianto accusatorio, che prevede una netta separazione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, in posizione di parità rispetto a un giudice imparziale. La preoccupazione sottesa a questo tipo di iniziative è che ci si sposti verso un sistema in cui l'esecutivo può avere il controllo dei pubblici ministeri, ma questa è un'ipotesi che non sta assolutamente scritta nella riforma costituzionale e che personalmente, come anche altri studiosi, vedo come improbabile. È previsto anche uno sdoppiamento dei CSM, cioè dei consigli superiori della magistratura. Che cosa significa? Intanto è la conseguenza in qualche modo della separazione delle carriere, 2 carriere che vanno dall'accesso diverso fino anche alla gestione della carriera del magistrato fatta da 2 CSM, uno per i magistrati giudicanti e uno per i magistrati requirenti. La modifica in sostanza da una parte è nel segno della continuità rispetto alla composizione attuale del CSM, dall'altra parte invece una discontinuità sotto il profilo della modalità di elezione, fondata sul sorteggio, perché si vuole sfuggire alla logica delle correnti. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora una notizia di cronaca: è stato un vigile del fuoco di Udine di passaggio a intervenire per primo nell'incidente costato la vita ieri sera a una 20enne lungo l'autostrada A4 poco dopo l'area di servizio di Arino di Dolo in Veneto. Il vigile del fuoco fuori servizio ha iniziato le operazioni di rianimazione cardiopolmonare. La giovane viaggiava tra Padova e Venezia sul sedile del passeggero di una utilitaria che si è scontrata con un camion poco prima della deviazione per la tangenziale di Mestre. Nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte della giovane. Ferito in modo lieve il conducente dell'auto, illeso l'autotrasportatore. L'autostrada è rimasta bloccata fino a oltre la mezzanotte. Ora il meteo: il cielo è da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, nuvoloso in montagna, le temperature delle 11 a Trieste 26 gradi, in mare quasi calmo con temperatura di 25, a Pordenone e Gorizia 27 gradi, a Udine 28, a Tarvisio 23 gradi, a Tolmezzo 25, a Forni di Sopra 24 gradi, a Sappada e sul Piancavallo 21, sul Monte Zoncolan 20 gradi, a Lignano 26 gradi, a Grado 26 e mezzo, temperatura del mare 25 gradi e 5 decimi. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi pomeriggio. Cielo variabile per velature anche piuttosto dense e su pianura e costa si sentirà il caldo afoso. Possibile qualche temporale nel pomeriggio sera, specie sui monti. E si celebra domani la 19ª edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Il presidente della sezione AIL di Udine, Giuseppe Gioffrè, ci ha illustrato obiettivi e iniziative. L'obiettivo di questa giornata, che è la 19ª edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, è quello di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su tutte le attività che AIL illustra e fa per quanto riguarda i progressi della ricerca scientifica e per essere ancora più vicini ai pazienti ematologici, adulti, bambini, o appunto con attività di sensibilizzazione e informazione su tutto il territorio nazionale. In particolare, nella giornata del 21 giugno ci sarà una linea diretta con gli ematologi con un numero verde dalle ore 8 alle ore 20, il numero verde è l'800-226524, a cui si alterneranno 8 illustri ematologi e un pool di altri specialisti per rispondere in maniera completamente gratuita a tutti coloro che chiederanno per consigli sulla malattia, sui centri di terapia in tutto il paese. Ci sono anche altre iniziative a livello nazionale come Sognando Itaca, che è stata una regata che ha portato nel Tirreno una barca di AIL in giro per varie città italiane e si è conclusa adesso a Napoli il 14 giugno. A livello locale le sezioni AIL, che sono la mia di Udine e Gorizia, poi c'è la sezione AIL di Trieste e la sezione AIL di Pordenone, porteranno avanti alcune iniziative. In particolare a Trieste ci sarà nella giornata di domani l'illuminazione della Fontana del Nettuno in Piazza della Borsa per tutto il giorno, sempre per sensibilizzare le persone su queste problematiche, mentre noi qui a Udine festeggeremo sabato i 35 anni della nascita della nostra associazione, oltre ovviamente sempre a sensibilizzare le persone, e insieme all'associazione Vanessa che è di Staranzano ci saranno 4 giornate tra il 20 e il 23 di giugno a Fogliano di Reti Puglia con varie attività, con vari bikers e con consegne anche di giocattoli di doni ai bambini del Burlo Garofalo. La Cimolai di Pordenone completa il New Drini Bridge in Albania in tempi record, è il ponte più grande mai realizzato nel paese. 271 metri di lunghezza, 55 di altezza dell'arco, sarà inaugurato nelle prossime settimane dal primo ministro Edi Rama. L'infrastruttura si trova nella città di Kukës, nel nord-est dell'Albania, tra il fiume Drin e il lago artificiale di Fierza, in cui è presente un'importante centrale idroelettrica, e permetterà il collegamento del sud dell'Albania con l'est Europa. Cimolai è subentrata in corso nel progetto su richiesta dell'impresa Salillari e della società autostradale albanese. Ha preso le redini della commessa nel maggio dell'anno scorso, dopo le difficoltà di realizzazione dei lavori che erano iniziati nell'agosto del 2020. Per completarlo, Cimolai ha istituito una task force di ingegneria interna per validare il progetto esecutivo, verificare le strutture parzialmente già installate e redigere il progetto di montaggio e varo. Convenzione tra Comune di Gorizia e Biblioteca Statale Isontina per valorizzare i volumi della Biblioteca Civica che sono custoditi nella Biblioteca Statale Isontina, 25.000 euro ogni anno. Sono oltre 102.000 volumi, se vengono messi in fila fanno 2.318 metri lineari. È il patrimonio della Biblioteca Civica di Gorizia, che comprende anche manoscritti, pergamene e il fondo Mekastetter. Si trova nella sede della Biblioteca Statale Isontina, che si occupa della sua gestione, due enti separati che condividono il palazzo e gli spazi interni. E proprio per razionalizzare questi spazi, il Comune di Gorizia, titolare della Biblioteca Civica, ha rinnovato la convenzione con la Biblioteca Isontina. Dal 2024 al 2028 verserà 25.000 euro ogni anno, cui se ne aggiungeranno altri 25.000 circa. L'obiettivo è sostenere le spese per i volumi e acquistare scaffalature compatte che permettono di risparmiare spazio e liberare così la sala conferenze, al momento occupata dai libri. Per l'assessore alla cultura di Gorizia, Fabrizio Oretti, questa nuova convenzione non ha un valore solo per i libri, ma valorizzerà anche un luogo dove, dice, è passata la storia. La Biblioteca Statale Isontina vanta oltre 200 anni di vita, fondata in epoca asburgica, di oltre 400.000 volumi. Negli ultimi tempi è segnata da criticità di organico, come è stato rilevato in un'interrogazione dello scorso marzo. Dei 29 dipendenti previsti sono in organico solo la metà e di questi manca personale amministrativo e bibliotecari, ma assicura l'assessore si sta lavorando per tamponare queste carenze. Gorizia, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il bastione fiorito del Castello di San Giusto ospita oggi il primo dei due tocca al tramonto organizzati dall'Università degli Studi di Trieste. Tema dell'incontro, aperto a tutti fino a esaurimento posti, è Arte e Uni Trieste. Un viaggio dal 1953 a oggi, con Bruno Calleguer, Massimo De Grassi e Lorenzo Michelli. L'evento è collegato alla mostra 1924-2024, un secolo di storia dell'Università degli Studi di Trieste, immagini e documenti, allestita sempre al bastione fiorito fino al 1 settembre. De Grassi, docente di storia dell'arte contemporanea all'Università di Trieste, racconterà le vicende delle prime opere d'arte donate all'Università. Quali sono state le prime opere d'arte che sono state donate all'Università? Beh, la prima in assoluto è il busto di Pasquale Revoltella, una versione dello stesso ritratto fatto da Pietro Magni per il Barone intorno al 1870. Revoltella aveva previsto per la scuola di economia che lui intendeva fondare, che di fatto è il primo nucleo del nostro Ateneo. Poi nel corso degli anni si è andato avanti con questa acquisizione. Quali sono state le tappe fondamentali, diciamo? La prima opera invece direttamente acquistata, anzi commissionata dall'Ateneo, è stata la testa di Fabio Filzi, che è stata per molti anni esposta nell'Aula Magna dell'edificio di Via dell'Università 7, che era stata commissionata a Timo Bortolotti, uno scultore torinese allora, siamo alla metà degli anni 20, piuttosto celebre, perché appunto Fabio Filzi, oltre ad essere stato un eroe della Prima Guerra Mondiale, naturalmente era stato anche un allievo dell'Ateneo. E poi le opere sono arrivate in alcuni casi alla spicciolata, in altri casi con politiche di acquisizione molto mirate. I casi più importanti sono legati alla decorazione dell'edificio centrale dell'Ateneo. Sto pensando naturalmente al Rosone degli Argonauti di Marcello Mascherini, pochi anni dopo la Minerva, sempre di Mascherini, che è diventata il logo stesso, l'elemento più riconoscibile di tutto l'Ateneo dal punto di vista iconografico. In mezzo c'è la ormai celebre mostra di pittura italiana contemporanea, voluta alla fine del 1953 dal rettore Rodolfo Ambrosino e dal soprintendente Civiletti, per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica italiana sul problema Trieste. Numerose oggi le presentazioni di libri. A Lignano Caterina Bonvicini presenta il suo Molto Molto Tanto Bene in Audi. Alle 18.30 al Palapineta, agli incontri con l'autore e con il vino, la rassegna promossa dall'Associazione Lignano nel Terzo Millennio. Bonvicini dialogherà con la giornalista e critica letteraria Martina Del Piccolo. E sarà presentato alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste in Corso Italia il libro di Francesco De Filippo, Trieste è un'isola, le prime involontarie indagini di Vincenzo Tagliente, editore Castelvecchi, vicenda avventurosa che affonda le radici nella storia del paese. Francesco De Filippo, giornalista, scrittore e saggista, vive e lavora a Trieste, è stato inviato all'estero per il Sole 24 Ore e lavora all'ANSA. Un lucherino in gabbia, Padre Collini nella Cina di Mao, è il titolo del libro di Aldo Castagnetto, che sarà presentato alle 18 a Tarcento nella terrazza della biblioteca comunale. Il Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone presenterà alle 18 all'ex tipografia Savio di via Torricella Il Re delle Fate d'Autunno, ultimo libro di Pierluigi Porazzi, un giallo ambientato in regione. Sarà l'ultimo evento prima dell'estate. Presentazione del libro La mia fotografia di Enrico Scaglia alle 18 nella terrazza della Società Ginnastica Triestina. Insieme all'autore ci sarà Zeno Saracino, curatore del Museo della Ginnastica Triestina, che alle 17 condurrà una visita guidata. Il libro di Loretta Facchina Zielsa, Donne capaci di essere presenti alla vita, sarà presentato a Trieste all'antico caffè San Marco di alle 19, dialoga con l'autrice Furio Onsel. Prosegue fino a sabato Trieste Crocevia di Culture, percorso turistico culturale tra genti, folklore e religioni diverse, giunta alla 13ª edizione. Oggi visita alla chiesa greco-ortodossa di Riva 3 Novembre alle 16.30. Novità dell'edizione di quest'anno la visita di domani allo Spugnificio Rosenfeld di Muggia e sabato una passeggiata alla scoperta del Borgo Franceschino da Viale 20 Settembre al Giardino Pubblico. Incontro culturale a Udine in via Anton Lazzaro Moro alle 17, si parlerà di esperienza di volo con Bruno Ciancarella al Civico 58, un incontro aperto a tutti. A Grado, al Giardino delle Rose, per Cinebike alle 21, proiezione di Il mio confine di Anya Medved. Il documentario è selezionato da Lorena Pavlic, direttrice artistica del Festival di Isola, partner di Cinebike. Sarà anticipato dal corto L'estate è finita, appunti su Furio, di Laura Samani, realizzato con pellicole amatoriali. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, la parte tecnica Mauro Cumine, Caterina Cabrelli, in redazione ha collaborato Daniela Sossi, dalla Razzani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.